Effetto Mondo. E buongiorno a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno Alessio. Allora, se sì, vuoi, visto dimmi. Che sentivo appunto gli argomenti che avete toccato prima, sì. Ti do due cose collegate. La prima è l'apertura di Arez di oggi, che parla di un Big Brother Coronavirus, cioè questa app che in Israele probabilmente sarà introdotta a brevissimo. Appunto, anche lì si parla di questo grande fratello legato al coronavirus, un grande. Sì. Grande fratello col coronavirus o del coronavirus, non so. E poi invece sulla questione del calcio in particolare, ieri è uscito un ampio servizio sulla BBC, si parla di una Premier League, cioè l'equivalente della nostra Serie A, se non sbaglio, ridimensionata, certo, nel valore delle sue rose di giocatori di 1,7 miliardi di euro, perché è chiaro che, come diceva Carlo, se un campionato non ha un vincitore, se non ci sono i diritti TV, tutto perde valore. E tra l'altro il club più colpito sarebbe, secondo la BBC, il Manchester City, che vedrebbe il valore dei giocatori ridursi, pensate, di 250 milioni di euro. Sarebbe quindi anche sicuramente un'occasione, c'è... per sgonfiare un sì. po' la bolla del calcio, che come sappiamo in questi anni è cresciuta tanto, anche troppo. Giusto, giusta sì. la sottolineatura. Giulia, invece sono diciamo contento che tu mi abbia proposto di occuparci di Spagna subito in apertura, perché la Spagna è un paese che insomma è molto simile all'Italia, sia nella posizione per quanto riguarda l'Europa, le richieste di aiuto inviate all'Eurogruppo, sia per quanto riguarda la situazione del contagio dell'epidemia, che è molto molto forte, e anche come fondamentali economici noi abbiamo un debito più alto, ma anche la Spagna insomma non scherza. Come hanno accolto i giornali un po' le notizie che arrivavano da Bruxelles? Ma guarda, ieri Sanchez è intervenuto in Parlamento e ha parlato di tutti questi temi, ha ribadito come naturalmente da qui, in questi giorni, in questi mesi, si decide una nuova Europa, perché se ci sarà questa nuova solidarietà finanziaria sarà appunto tutto un meccanismo diverso. Si è sempre parlato di come un tabù di politiche fiscali comuni, di politiche finanziarie comuni. Questa potrebbe essere la svolta, però al di là di quello la notizia poi è che quasi certamente anche Sanchez ufficializzerà la proroga dell'aislamiento, del lockdown, perché sembrava che invece a un certo punto la Spagna fosse più vicina di noi a dire a volerlo interrompere questo isolamento, sembrava, ho capito male io? Sì, in realtà adesso ci sono due date, il 26 di aprile o il 10 sì. di maggio, così riportano El País. Perfetto. E El Mundo. Se vuoi sentiamo un brevissimo passaggio di Sanchez, che ieri ha parlato una seduta fiume, ore e ore in Parlamento, un po' perché c'erano poche persone, quindi tutti cercavano di farsi portavoce dei parlamentari che erano assenti per motivi sanitari, naturalmente la maggior parte con la mascherina, tranne Sanchez, che secondo me, se vuoi saperlo, lo fa per vanità, perché secondo me lui sa viene male di essere molto bello e la mascherina non gli do. Donando lui, secondo me invece gli donerebbe, ma sentiamo un brevissimo passaggio di uno dei suoi tanti interventi, perché poi c'è stato molto dialogo tra i suoi interventi e quelli soprattutto dei rappresentanti delle opposizioni. Io credo che la pandemia sta dimostrando a livello mondiale che un paese solo non può vencerla, non può vencerla. E dentro del nostro paese tampoco potremo vencerla se non c'è una unità intorno al governo. Insomma, qualcosa abbiamo capito, però cosa ha detto? Dice, insomma, questa epidemia sta mostrando che ci sono cose, come appunto le emergenze sanitarie, che si affrontano, si superano soltanto se tutti i paesi si uniscono e se all'interno di un paese le varie posizioni si uniscono. Perché se da una parte è vero che quello di Sanchez è un governo di coalizione, ma guarda un po' come se noi non conoscessimo questa situazione. Certo. Ci sono grandi divisioni all'interno del governo e poi anche all'esterno. Comunque, insomma, sembra tenere per ora, anche se sappiamo che tra tutti i leader europei Sanchez è quello con la percentuale di approvazione minore per come sta gestendo la crisi, però insomma ho sentito prima che adesso si comincia appunto a passare, come dicevi tu, da eroi a antieroi sì. nel giro di pochi giorni, quindi insomma è chiaro che c'è tanta emotività in come giudichiamo chi sta gestendo a livello politico o sul campo queste emergenze. Senti, i tedeschi cosa faranno a Pasqua? Nel senso, cioè, so che lì varia molto da Länder a Länder, no? le misure, però che sì. margini di spostamento hanno? Guarda, l'indicazione è veramente di non muoversi assolutamente. Tra l'altro la Pasqua, un po' come il Natale, in Germania, specie nei Länder del Sud, è molto sentita. Ci sono le caccia alle uova, che naturalmente dove i bambini soprattutto vanno nei prati, nei parchi a cercare le uova nascoste più o meno dai genitori. Questo naturalmente non si potrà fare, è una Pasqua molto speciale. I giornali tedeschi oggi non escono come da tradizione per il Venerdì Santo, però ci sono online molti articoli. Perché ieri non è passato inosservato l'appello di alcune associazioni di medici di base, sì, che hanno detto non solo che la Pasqua non ha nulla a che vedere con le vacanze fuori porta, con le gite fuori porta, ma che anche per l'estate i tedeschi si preparino a non uscire dal paese. Ora, i flussi naturalmente per quanto riguarda la Germania sono soprattutto in uscita che non in entrata, tranne magari per piccoli eventi come i festival, sì, musicali, ma questo tema c'è anche sui giornali spagnoli, perché anche a proposito di isolamento, probabilmente in estate le frontiere della Spagna resteranno chiuse, cioè gli spagnoli non potranno andare all'estero ma non potranno neanche accogliere turisti, quindi forse aumenterà il turismo interno, speriamo che succeda anche in Italia del resto, però ci sarà un grosso problema, lo sappiamo, il turismo è uno dei settori in assoluto più colpiti. Senti Giulia, invece nel Regno Unito mi segnali che c'è un tema di case di riposo anche lì, che noi sappiamo bene purtroppo quello che è accaduto, ci sono anche delle inchieste aperte. L'apertura del Guardian, che ha fatto un'inchiesta un po' come quella che ha fatto Repubblica nel weekend, che poi ha aperto naturalmente a un'analisi più approfondita da parte di tutti, anche da parte naturalamente della magistratura, e il titolo è centinaia di persone sono morte in queste care homes e non vengono nemmeno inserite nei bilanci ufficiali. Certo, se quando diciamo che il coronavirus colpisce di più le persone che hanno delle altre condizioni, degli altri problemi medici, gli anziani purtroppo oltre a questo, insomma, per definizione sono più deboli, più fragili e quindi muoiono più, però alla fine, come ha fatto l'Istat ieri, se guardiamo i numeri delle morti è impossibile pensare che sia colpa di qualcos'altro se non del nostro piccolo microscopico nemico, il coronavirus, e questo naturalmente a ricaduta ci sono poi delle accuse fatte al governo, che non ha tenuto conto anche in questo caso che bisognava dare delle priorità di protezione al personale sanitario e alle persone più deboli per definizione, cioè gli anziani. Tra l'altro ci sono anche altre due, naturalmente c'è la notizia di Johnson che è uscito dall'unità di intensive care dimostrando la forza che tutti gli attribuivamo, è evidentemente una personalità molto forte che è riuscito a reagire bene alle cure, anche se anche soltanto ieri aveva ancora la maschera dell'ossigeno, non è mai stato però attaccato a un ventilatore. E poi c'è questo ministro che pur facendo parte di un governo che dice a tutti di non uscire di casa ha pensato di fare 40 miles, quindi circa 60 chilometri per andare a trovare i suoi genitori, che è una cosa che penso vorremmo fare tutti, quindi lui non è andato a trovarli per salutarli dalla finestra, è proprio entrato in casa e naturalmente è una cosa che anche qui forse ci fa capire che poi gli esseri umani sono uguali in tutto il mondo, insomma le regole molto severe facciamo fatica tutti a rispettarle, se poi pensiamo di avere un lasciapassare politico ancora peggio, lì poi non c'è coercizione vera e propria, quindi diciamo che c'è un pochino più di libero arbitrio da questo punto di vista. Pochi secondi per chiudere, Giulia, però sulla Francia mi segnali un dibattito sulla clorochina che mi sembra molto centrale in questo momento. Sì, in Francia c'è questo medico di Marsiglia che sono settimane che annuncia, e ha tra l'altro ci sono state code davanti all'ospedale dove lavora, e ci sono perché annuncia che la clorochina nei suoi esperimenti ha funzionato. Ieri Macron, con tanto di mascherina, a proposito di vanità o non vanità, è andato a vedere come funziona questo ospedale. Le Figaro ci apre perché effettivamente il trattamento di questo professore che si chiama Raoult, se veramente i risultati sono quelli che lui dice, potrebbe essere una speranza per tutti. Su questa speranza chiudiamo qua la puntata e anche la settimana. Grazie Giulia, un grande abbraccio a te. Ci risentiamo a partire da martedì, perché lunedì e Pasquetta non saremo in onda. È tutto per questa puntata. Peter Bescapè in regia, Danilo Di Trani in assistenza, in diretta Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizio l'auguro di buona giornata, buon weekend, buona Pasqua, metteteci tutto. Ci risentiamo tra poco però per i titoli di GR24.